Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi teneteci compagnia. Ci sono due strumenti facilissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter @MartaCagnola e l'hashtag, sempre per chiusa Twitter, il sabato del villaggio. È un po' lungo, usiamo le iniziali, cancelletto ISDV. Ma prima lo devo dire per forza, lo dico ora perché poi sarà troppo difficile. Tutti noi di Radio 24 oggi siamo in onda con il cuore a pezzi, perché Fabio Cantadori, per noi Rudy, se n'è andato all'improvviso. Però adesso me lo vedo dietro al vetro che tira fuori il cartellino rosso, alza l'indice da arbitro e ci rimanda in campo me, Filippo Aureggi in regia e Cristian Goldoni in redazione. Quindi andiamo a fare la radio, andiamo nel nostro sabato del villaggio e scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme: il successo dello storytelling, l'arte della narrazione, del racconto, in particolare nello sport. Ne parleremo con il personaggio ora più popolare in TV e anche a teatro, Federico Buffa. Le tecnologie con Enrico Pagliarini, il cinema, tutte le novità del weekend in sala e subito la televisione, il successo di una serie che è diventata un cult e che ora torna, lo avevamo anticipato, con la seconda stagione. Ci sono anch'io, mi porto due lacrime scese in ritardo, la strada più breve si impara al ritorno. I numeri sono impressionanti. La prima stagione aveva registrato il 25% di share, oltre 7 milioni di telespettatori in media, 200.000 DVD venduti in edicola, 326.000 utenti attivi su Facebook. Il libro da cui è tratta questa serie televisiva ha venduto almeno 250.000 copie e adesso il secondo libro che racconta l'esperienza della serie TV, 50.000 copie. Torna il 15 febbraio la seconda stagione, stiamo ovviamente parlando di Braccialetti Rossi 2. Ma sentite cosa è successo mercoledì 4 febbraio in Via Asiago a Roma. Scene di delirio, di giubilo delle ragazzine, soprattutto per i protagonisti. Per noi c'era Francesco De Remigis, che ha incontrato i giovanissimi attori. Ascoltiamo in particolare Daniel Lorenz Alviar Tenorio, che interpreta un nuovo personaggio, Chicco. Ti aspettavi un'accoglienza così dalle ragazze, ma dal pubblico? No, non me l'aspettavo davvero. È stato foto, sono qui da questa mattina alle 8. Infatti, alcuni prima mattina l'ho vista. Aspettare così tanta gente non me l'aspettavo. Che ti senti di dire a questo pubblico, che è il vecchio pubblico, ma ci sono anche tanti nuovi fan? Li ringrazio molto, sono molto felice che sono qui. E spero che li accontentiamo tutti tra foto, autografi e altro. Per la nuova serie, qual è il punto di forza della storia secondo te, anche nel tuo ruolo? No? Il punto di forza è il legamento tra le amicizie e la verità. La vita è una piuma, si balla e si trema, amore mio. Ma se lo aspettava il successo di Braccialetti Rossi il regista Giacomo Campiotti? Ma diciamo che il successo in qualche modo ci ha sorpreso. nel senso che io non pensavo che il pubblico recepisse un programma così forte, così coraggioso, e mi sono piacevolmente sbagliato. Questo fa capire che quando la televisione ha il coraggio di fare servizio pubblico, cioè di parlare di temi forti in maniera anche diretta, vince. Questo successo così è stato profondo proprio nella società civile. Noi abbiamo ricevuto migliaia e migliaia, come avete visto anche voi, di lettere, messaggi proprio dalle persone malate, dalle loro famiglie, alla gente che lavora negli ospedali, che ci dicono che le cose sono un po' cambiate anche negli ospedali, cioè che c'è più gente che va a trovare i malati, le strutture in tanti posti sono un po' aperte, no? Perché spesso l'ospedale è considerato quasi come una prigione, invece dopo i braccialetti si circola più facilmente, e chi fa clown terapia o altri tipi di sostegno ci dice che abbiamo aperto molte porte più noi col film di quanto loro si fossero riusciti a fare in tanti anni. Quindi per me è un piacere enorme, così diciamo, quando senti che il tuo lavoro diventa anche utile oltre che piacevole, è la cosa più bella che può succedere, diciamo, a un regista, credo. E quindi la seconda serie siamo partiti con un grande senso di responsabilità, no? E anche di paura, devo dire la verità. No, dopo un successo insomma ti viene sempre paura, e però abbiamo cercato di non tradire quello che è il messaggio forte, cioè dire, parlare del dolore senza paura, ma però cercando di vedere sempre l'aspetto che c'è dietro, no? Lo sappiamo tutti purtroppo che comunque nei momenti duri della vita ti scatta qualcosa che fa uscire da noi il meglio. Purtroppo è così, è triste, ma è così. Tanta gente ci racconta che proprio nel dolore, nella malattia, ha trovato un senso nelle cose che prima non trovava, ecco. Dopodiché c'è la storia dei braccialetti, che troveremo quest'anno in crisi, perché l'amicizia non va data per scontato, quindi il gruppo si è un po' sfaldato e dovranno faticosamente recuperare la loro amicizia. Troveremo qualcuno che dà un gran filo da torcere all'amore di Leo e Chris, ci saranno dei nuovi partner che entrano in maniera minacciosa, chi lo sa poi se Davide, il bello che abbiamo visto morire, chissà se in qualche modo riuscirà a tornare dai loro amici, e così via. E questo era il regista Giacomo Campiotti, il regista di Braccialetti Rossi, torna Braccialetti Rossi 2 il 15 febbraio, ma noi cerchiamo di capire, insomma, al di là di quello che pensano i protagonisti, abbiamo sentito un attore, abbiamo sentito un regista, le ragioni di questo successo che io francamente non mi aspettavo così grosso, e cerchiamo di andare alle ragioni di questo fenomeno con quella che secondo me è una delle critiche televisive più brave d'Italia, per non dire la più brava, perché poi fa brutto dire così. Buongiorno Alessandra Comazzi. Grazie, siamo anche pochi ormai, comunque. Beh, no. Grazie molte. Che noi leggiamo sempre sulla stampa, e voglio segnalare anche il tuo blog, che è Cose di Tele, Cose sulla di stampa. Tele. Guarda, davvero, sei preparata. Beh, io leggo la Comazzi, mica scherzo. Alessandra, secondo te perché? Ma in effetti nessuno avrebbe scommesso un copeco sul successo di uno sceneggiato così, no? Che comunque ospedale, bambini malati, cioè metti proprio tutti insieme gli ingredienti per non avere successo. Credo che la formula della solidarietà, del racconto vicino che appare, cioè è costruito molto astutamente, perché che cosa succede? Appare come un racconto della realtà, in realtà nella vita vera gli ospedali, diceva adesso Campiotti, che si sono un po' aperti dopo Braccialetti Rossi, in realtà gli ospedali non sono proprio così, anche dal punto di vista clinico chirurgico. Leggevo dopo la presentazione dell'altro giorno, per l'appunto, che certi interventi che vengono enfatizzati nello sceneggiato, perché comunque fanno storia, fanno narrazione, in realtà non si fanno più, però in effetti si chiama fiction, quindi è un racconto di finzione. Non starei a guardare il fatto che ci sia, che non tutto sia perfettamente e clinicamente aderente. La cosa veramente importante è che, come spesso gli sceneggiati, la fiction e i racconti di finzione sono fatti bene, hanno una potenza, colpiscono moltissimo, hanno una potenza di colpire l'emotività dello spettatore molto più di quello che avrebbe un talk show di informazione. Oggettivamente fiction batte giornalismo, ma, e lo dico da giornalista, ma 10-1. Alessandra, c'è una cosa che mi ha stupito, forse è la prima volta che un programma televisivo italiano diventa anche un live, perché i ragazzi, Niccolò Agliardi, che è l'autore della colonna sonora, fanno dei live in giro per l'Italia. Sì, perché un altro motivo del successo, tu mi chiedevi prima, è proprio questo, cioè l'amalgama della squadra dei ragazzi. Sono riusciti a trovare dei ragazzi, e questo onore al regista e a chi ha fatto il cast, chi ha seguito il cast, dei ragazzi che hanno il gusto di lavorare insieme, che li vedi che sono anche bravi sul serio, e non è facile far recitare i ragazzini, che recitano bene e che per l'appunto suonano sul serio, e sono riusciti a trasportare questa loro immagine positiva anche al di fuori. È una roba alla Violetta, se vogliamo, soltanto che Violetta è molto facile veicolare Violetta con quei temi lì, coi temi dell'amore eterno, coi temi dell'amore sì, ma sviluppato nella malattia, insomma, ci vuole ancora più professionalità, ancora più abilità. Vorrei farti ascoltare quello che ha raccontato Carlo Degli Esposti, che è il produttore di questo, che poi è la versione italiana di una serie spagnola, perché domani mattina ci sarà proprio uno di questi live che andrà in tutti i cinema da Space, dal cinema di Milano, in diretta in tutti i cinema da Space. Vorrei farvi sentire come ha raccontato questa decisione il produttore Carlo Degli Esposti. In 200 cinema italiani verrà trasmesso un live di ragazzi cantanti dal Cinema Anteo di Milano alle 10:30, e di seguito, dopo un'ora, l'anteprima della prima puntata. Sarà in 200 sale al prezzo normale di un biglietto di cinema, già più della metà dei biglietti sono stati prenotati, ed è una maniera per condividere con la parte più, diciamo, militante del pubblico di Braccialetti Rossi, condividere e dargli un'anteprima che sarà fisicamente tutti insieme. Avete capito che questo gruppo di ragazzi, ma soprattutto la scrittura che c'è dietro di Albert Espinosa, ha trasformato dei normali rapporti in una grande banda. È una banda che ha un merito complessivo del successo, in cui si incrociano il pubblico, delle ragazzine che stamattina erano già alle 9, nonostante noi avessimo detto su Twitter se piove non venite, ma se venite, venite dall'1 alle 4. C'erano una trentina di ragazzine che non avevano dubbi sul fatto di venire alle 8 e di non andare a scuola per un giorno, e ogni tanto fa bene. Io credo che ogni tanto saltare un giorno faccia più che bene, perché si riacquista quella voglia di tornarci il giorno dopo. Beh, grandissimo Carlo Degli Esposti, che dice: ogni tanto bigiare fa bene, perché si va. Sì, furbacchione, certo, bigiato per venire a vedere questo film. Beh, però è una cosa bella, è una bella iniziativa, è un'iniziativa di condivisione. Sarebbe bello, sul serio, se di tutti i ragazzi, e anche le persone grandi che vedono questo sceneggiato, che si accostano alla band, che si accostano a tutta questa tematica, se restasse la volontà, la capacità di accettare la malattia, che cosa che davvero è difficilissima naturalmente, e la capacità di aiutare, di avere solidarietà nei confronti di chi si ammala. Grazie Alessandra Comazzi. Allora, ti leggiamo sempre sulla Stampa e ne Cose di Tele, che è il tuo blog, che vedi io seguo con grande passione. Grazie Alessandra, grazie. Ti richiameremo ancora se ti va. Ma certamente, è un piacere. Buon pomeriggio, grazie a tutti. Grazie ancora ad Alessandra Comazzi. Noi ci risentiamo tra poco, perché è il momento di aggiornarci sulla viabilità. Il sabato del villaggio. Parliamo di un personaggio popolarissimo, diventato popolare in realtà da qualche mese, da pochi anni. Lui era già un giornalista sportivo molto conosciuto, ma a un certo punto ha cominciato a raccontare storie di sport, a farlo in TV, su Sky, a farlo anche a teatro. Adesso si è esibito al Teatro Menotti a Milano con un sold out per raccontare delle straordinarie storie storie di calcio. E ora torna in televisione proprio da questa sera con Storie di campioni. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, please, please let me get what I want this time. All'inizio degli anni 60, sotto l'amministrazione di Harold Wilson, gli inglesi finalmente si accorgono che la guerra è finita. O forse sarebbe meglio dire le guerre. Quando nel 1947 Lord Mountbatten riconsegna l'India a Nehru, neoeletto, e che tra l'altro ha una conclamata relazione con Lady Mountbatten, senza che a Lord questo interessi granché, sono inglesi, può succedere, in realtà il messaggio è forte e chiaro. La Nuova Britannia non è più disposta a dislocare militarmente i suoi figli in giro per il mondo. Sì, ma questo avrà conseguenze deflagranti sulla società inglese, perché quella del 60 è la prima generazione che in guerra non ci andrà proprio. E questo è proprio un frammento di Storie di campioni che andrà in onda da questa sera su Sky Sport 1 alle 23.45, ma anche su Sky Arte la domenica alle 20.10. Ma intanto vogliamo parlare di lui, Federico Buffa. Lo abbiamo incontrato in questi giorni, lui è diventato davvero un personaggio popolarissimo e gli ho chiesto, perché riconoscerete la mia voce, cosa pensa di tutto questo? Ormai sei diventato un personaggio popolarissimo, un punto di riferimento. Sì. Com'è questo momento per te? Perché si parla tanto di te, sei seguitissimo. Ti mette responsabilità. Se è vero che c'è una sorta di accesso privilegiato al mondo giovanile, questo mi fa pensare molto, fa pensare, perché quando vivi la tua vita professionale non pensi mai di poter avere un contesto dove puoi condividere. Invece forse quello che succede, mi capita di assistere tanti studenti italiani nelle loro tesi, nelle loro tesine, e mi piace dichiararmi sempre disponibile per questo, mi piace sentire che ci sono degli insegnanti che fanno vedere magari il pezzo su Harp Advice nei giorni della memoria, oppure dei ragazzi che ne rifanno una loro versione teatrale, ovvero sia che non è per forza sempre che esista un'Italia giovanile seduta su se stessa e priva di interessi. Esiste un'Italia che è giovanile, che ha voglia anche di approfondire. Ecco, mi farebbe piacere potermi rivolgere con continuità a loro. Infatti, oltre alle tue cose televisive, lo dicevamo in conferenza stampa, hai portato le tue storie anche a teatro, e il tuo pubblico è molto giovane. Sì, beh, quello era veramente impressionante. Io da dove stavo sul palco non li potevo vedere, però poi mi hanno raccontato che effettivamente l'età media era estremamente bassa, e quindi è diventato un po', li porta a teatro. Non so se ho portato dei giovani a teatro, però ho avuto il privilegio di poter stare su un palco, di poter diventare per metà me stesso e per l'altra metà provare a fare l'attore con dei professionisti di un livello impressionante. L'idea è ogni X anni di cambiare, di fare le cose che non si sanno fare e di provarci. Poi non so come sarà l'esito, però ho trovato che sia di grande stimolo fare cose che non sai fare e impegnarti, perché triplichi l'energia, e non credevo di averne tanta per poter provare anche 10-15 ore al giorno. E invece io non volevo mai andare via, perché mi piaceva troppo quello che facevo. E quindi realmente, quando il tuo lavoro è anche una passione o qualcosa che vorresti provare a fare, è un privilegio che non ha uguali. È il momento dello storytelling. Anche a Radio 24 noi abbiamo delle trasmissioni che raccontano molto, abbiamo adesso quelle di Enrico Ruggeri, abbiamo Dario Ricci che racconta grandi storie di sport. Secondo te c'è il bisogno di sentir raccontare? Sì, perché è la risposta all'idea che l'attualizzazione dello sport diventi un'ossessione, ovvero sia che si perda sempre la componente epica, si perda il valore sociale di che cosa è stato lo sport. È per quello che sono così affezionato all'idea di poter raccontare una storia sul Grande Torino. Il Grande Torino è il nostro dopoguerra, è l'Italia che viviamo oggi, come si è formata attorno a questa squadra irripetibile e tutta italiana, tra l'altro, finita in quel modo. Io penso che il pretesto sia lo sport per poter parlare anche di altri contesti. artisti, e oggi più che, secondo me, lo storytelling in senso stretto è l'idea di poter avere una fusion di contesti che permettano di guardare le cose attraverso angolazioni differenti o comunque non sempre la stessa. Il calcio è uno sport di attualità, ma secondo me lo viviamo in maniera un po' troppo enfatica nelle parti legate all'attualità, e invece ci perdiamo che cos'è stato, ovvero sia l'esperanto, ed è l'esperanto del mondo. Beh, io non potevo non citarlo in questo incontro con Federico Buffa, perché da noi a raccontare storie epiche di sport c'è Dario Ricci, che abbiamo in collegamento. Ciao Dario. Troppo buona Marta, un saluto potevo... tutto il sabato del villaggio. Non potevo non parlare di te con Federico Buffa. È l'antidoto a quello di brutto che c'è nello sport, il modo giusto per raccontare di sport. Cos'è lo storytelling sportivo, che è poi la grande tendenza in questo momento nel mondo del giornalismo sportivo, secondo te, Dario? Ma credo che sia un insieme di tutte queste cose: emozioni, soprattutto cultura, storia, direi in una parola consapevolezza di quello che è lo sport, che non è una virgola né un apostrofo, ma un qualcosa di essenziale nella nostra cultura, nel nostro essere cittadini, direi, è quasi un atto politico in questo senso. E poi soprattutto anche dal punto di vista giornalistico, rivivere la storia dello sport spesso ti permette di scoprire a distanza di anni dei particolari nuovi, perché non è detto che i protagonisti dicano tutta la verità sempre nell'immediato, nelle ore immediatamente successive a un evento. Spesso le verità dello sport escono a distanza di anni, e allora ogni pagina della storia dello sport è degna di essere rivissuta in quest'ottica, perché porta nuove notizie. Dario, io ascolterei con te quello che ci ha raccontato ancora Federico Buffa proprio sullo storytelling e su questo momento molto particolare del racconto sportivo. L'epica che tu hai citato dello sport forse è l'antidoto un po', sì, alla cronaca, sì, al gossip. Totalmente, in questo rispetto agli anglosassoni siamo indietro. La letteratura sportiva italiana sta crescendo adesso, ma per tantissimo tempo non è esistito. Il cinema italiano non ha mai ritenuto di dover fare un film di sport con un certo tipo di passo. Lo ha fatto diventare commedia, ma quasi mai un film. Perché un regista italiano o un produttore italiano non pensa di raccontare la spedizione italiana alle Olimpiadi del 36, che fu eccezionale, sono una storia più bella dell'altra? Non avevamo la possibilità di raccontarla in teatro, ma tanti ragazzi o uomini mi hanno scritto dicendo: ah, nel giardino di casa mia c'è ancora la quercia che Hitler diede a mio nonno e che è ancora quella che vediamo tutti i giorni. Cioè, ci sono decine di storie di sport italiano che meriterebbero un contesto diverso, e invece lo sport non riesce mai, o perlomeno fino adesso non c'è riuscito, a superare quel confine tra o troppo attuale o parodistico. Quella parte enorme, centrale, che c'è è stata piuttosto inesplorata, ma sta migliorando adesso. In Storia di Campioni quest'anno, oltre ad andare in esterna, ti sei dedicato anche a storie vicine a noi, sì, campioni, sì, ancora attivi, sì. È più difficile? No, è più bello, è più difficile esterno sicuramente, perché lavorare in studio è molto più confortevole e dà più sicurezza alla crew. Adesso mi stavo vedendo e mi ricordo com'era girare a Belfast. C'è un freddo becco, io sembra che parli piano perché sto parlando bene, in realtà che non riesco a parlare perché -2, e quindi però la soddisfazione di poter andare nei luoghi dove è successo tutto è impareggiabile. Sabato partiamo per Madeira per andare a vedere dove è nato Cristiano Ronaldo, e questa è un'altra cosa che, ecco, siccome volevamo andarmi a Malmo, la crew si è opposta e siamo riusciti a farci mandare almeno a 15 gradi per una volta. Hai detto che fosse per te, tu racconteresti sempre mondiali, sì, del 34, sì, del 38. Io vorrei viaggiare sempre nel tempo, ma capisco che la produzione di Sky si opponga. Invece una storia che ancora vorresti raccontare ma non c'è ancora? È facilissimo. Matthias Sindelar, il più grande giocatore del mondo degli anni 30, che muore probabilmente suicida dopo l'Anschluss, ovvero sia quando lui non vuole giocare per la Germania che aveva annesso l'Austria, e si suicida con la fidanzata che lui conobbe all'ospedale a Milano, perché il nostro centromediano Monti ce lo mandò durante la semifinale giocata a San Siro del Mondiale 34, perché all'epoca si potevano fare robe del genere, non si sostituiva, quindi io mando all'ospedale il migliore di loro, giocano in 10, l'Italia vince, e all'ospedale conobbe la signorina Castagnola che diventerà sua moglie, e con lui si suiciderà in un appartamento a Vienna nel 1939. La verità è che Federico Buffa potrebbe raccontarmi qualsiasi, grazie, cosa. Grazie. E abbiamo ancora in collegamento Dario Ricci. Dario, non so se sei d'accordo con quello che ha detto Federico Buffa, ma soprattutto vorrei sapere, visto che racconta storie di campioni, Federico Buffa, in questo nuovo appuntamento. Tu le racconti la domenica alle 16.30, spero di non sbagliarmi, con Olimpia, Miti e Verità dello Sport. Tanto Dario, sai che io sono una tua fan, perché ti mando i messaggini quando ascolto, gli ascoltatori non lo so. Io mando i messaggini mentre sono, se non guido, se sono in macchina e ti ascolto. Sei d'accordo con questa visione? E soprattutto voglio sapere se questa visione si può applicare anche e magari soprattutto al rugby, visto che tu sei in atmosfera. Sì, guarda, sono qua proprio a pochi minuti dall'inizio di dall'Irlanda all'Olimpico. Il rugby è sport epico per eccellenza. Tra l'altro, un piccolo suggerimento a Federico, nel senso che per una volta l'abbiamo anticipato, perché la storia di Mattias Sindelar è stata una delle due che abbiamo raccontato proprio nell'ultima puntata di Olimpia, dedicata proprio alla giornata della memoria, quindi sarà bello averla almeno come spunto di paragone. Perfettamente d'accordo con quello che dice Federico, c'è tanto da raccontare, ci sono tante storie nascoste che non sono solo storie di sportivi, ma storie di uomini. Ad esempio, io quest'anno mi sono concentrato molto nello studio delle biografie degli sportivi italiani che incrociarono la Grande Guerra. Molte di queste le stiamo raccontando proprio ad Olimpia, perché è giusto a un secolo di distanza da quell'evento tragico e straordinario al tempo stesso ricordare il contributo che diedero a quelle vicende questi uomini di sport. Tanto per fare un esempio, Marco. Grazie Dario, adesso vado a recuperare il podcast allora della puntata a cui ti riferisci. Domani 16.30 Olimpia, Miti e Verità dello Sport. Grazie a Dario Ricci per essere stato con noi, a presto Dario. Grazie a voi. Il sabato del villaggio. Eccoci alla seconda parte della prima ora del sabato pomeriggio di Radio 24, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, libri. Grazie per i vostri sms al 349-238-6666, tanti abbracci alla famiglia di Radio 24. E poi tanti mi stanno anche scrivendo via Twitter, sono molto contenta di sentirvi in questo sabato pomeriggio, nel quale, come sempre, mi raggiunge in studio Enrico Pagliarini. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Ciao. Enrico, sei mai stato a Portico di Caserta? Io non ci sono ancora stata, però se ci andiamo, sai che ci ascoltano da un bar, e che secondo me è la cosa più carina del mondo, che ci stia ascoltando il Bar Rendezvous. È bello, sì. Mi piace molto che ci ascoltino in un bar a Portico di Caserta. La prima volta che passiamo di lì andiamo a farci offrire un caffè. Salutiamo, esatto, sì. Poi era una mozzarella magari, vista la zona. Enrico, di cosa parliamo oggi? Qual è la novità? Dunque, o l'aspetto novità tecnologico di cui dobbiamo parlare oggi? Ho pensato così, mi scrivono ogni settimana molti ascoltatori facendo le domande più disparate. Ad alcune sono capace di rispondere, posso rispondere. Altre devi studiare. Altre devo un po' studiare, altre proprio non sono capace. Ma molti ascoltatori scrivono, ma sto o ristrutturando, mettendo a posto casa, che cosa devo fare? Allora, in molti casi purtroppo non si riesce a dare un consiglio perché sarebbe troppo complicato, bisognerebbe vedere un po' gli impianti. Poi non è detto che io sia capace, a volte interrogo gli esperti che conosco. Allora, uno dei problemi più grossi è come portare, ormai una grande esigenza nelle case, la connettività. Allora, sperando che ci sia internet e che funzioni, dando per scontato che la zona sia ben coperta. Esatto, questo è un problema e lasciamo da parte questo problema. Diciamo, se abbiamo un collegamento a internet, naturalmente arriva internet in un punto della casa. Come lo portiamo nelle altre parti dell'abitazione? Una delle soluzioni più veloci è Wi-Fi. Però certo, Wi-Fi ha dei problemi perché in alcune case un po' vecchie magari ci sono dei muri molto spessi, e se il Wi-Fi deve superare uno o due muri la qualità della connessione decade. Poi c'è un altro problema, soprattutto nelle città e soprattutto nei palazzi c'è molta interferenza. Se ci sono troppi Wi-Fi può succedere che le varie reti si interferiscono l'una con l'altra, quindi no, questo non vuol dire che io prendo segnale dell'altro, però è proprio un problema di qualità della comunicazione che degrada, certo, quindi ho dei problemi di connettività. Che cosa si può fare? Allora, se uno ristruttura la casa e può fare un intervento massiccio, può come si dice in gergo, tirare il cavo, cioè mettere delle prese Ethernet in tutte le stanze. Che sono quelle rettangolari, piccoline. Sì, sì, le prese internet classiche, quelle stessa connessione che esce dal router di internet, no? Però chiaramente questo richiede un lavoro di muratura e lo si può fare se c'è o se uno costruisce la casa nuova oppure se sta facendo una ristrutturazione. Se no, c'è una soluzione, lo dico e lo vorrei ricordare perché è una soluzione che non mi pare che sia conosciutissima, si chiama Powerline, è molto semplice, si basa sulla rete elettrica. Tutte le case in tutta Italia, in tutto il mondo no, però in tutta Italia sicuro, hanno una presa elettrica estesa in tutte le stanze. Certo. In ogni stanza abbiamo più prese elettriche. Allora noi possiamo, partendo dal router da cui arriva internet, mettere una, la chiamiamo borchia o comunque una presa con questa tecnologia Powerline, è grande sostanzialmente come una scatola di caramello, una scatola di sigarette, da lì partiamo e sfruttiamo il cavo elettrico, sì, proprio della rete elettrica di casa, per portare internet in un'altra stanza o in più stanze. Dalla parte opposta bisognerà installare un'altra di queste scatolette, cioè io quindi mi attacco all'elettricità, ma di fatto prendo anche la rete. Esattamente, io sfrutto stavo mimando alla radio, non si vede. Io sfrutto, allora l'impianto minimo è due di questi apparecchietti che costano non tantissimi euro, partiamo da 20-30 euro l'uno, quindi visto che ce ne vuole una coppia, cioè il punto di partenza e il punto di arrivo, diciamo che possiamo partire da, se troviamo sconti, anche 30-40 euro la coppia, però 50-60 euro e in questo modo risolviamo il problema. Dopodiché dal punto d'arrivo possiamo o proseguire col cavo, se abbiamo un computer possiamo collegarci col cavo, oppure da lì possiamo fare un hotspot wifi, quindi potremmo ad esempio portarlo, che ne so, a due stanze di distanza e poi da lì fare un hotspot wifi in un'altra stanza, però risolvendo una serie di problemi e la rete è già fatta. Diciamo che potenzialmente, allora, questa tecnologia la si era provata a utilizzare anche per reti esterne, per portare internet, ma ci sono una serie di difficoltà perché con la distanza il segnale degrada, però all'interno di un'abitazione, visto che le distanze sono molto brevi, parliamo di al massimo alcune decine di metri, e poi possiamo addirittura anche fare una rete su più piani, esattamente, certo. Questo può essere una soluzione molto, e tutto sommato a basso costo. Beh, straordinario. Poche decine di euro. Ho una curiosità, questa settimana si è parlato ancora di WhatsApp per tante ragioni. Che cosa mi dici? Questa cosa che insomma con WhatsApp si potrà telefonare, dimmi la verità, spiegami davvero cosa succede. Allora, WhatsApp ha aggiornato l'applicazione preparandola di fatto alla possibilità di fare telefonate, che era uno dei grandi vincoli, è uno dei grandi vincoli di WhatsApp. Si può mandare un messaggio, ci si può messaggiare, ma non si possono fare telefonate a gratis. Cioè, allora, a gratis per con il consumo della banda, diciamo che stando nelle soglie che abbiamo pagato, esatto, nel mese devo avere un piano dati. Però se ho il piano dati, poi all'interno di internet, insomma, tutto quello che si fa su internet, o meglio, molte cose che si fanno su internet sono gratis, posto che uno abbia internet. Certo, posto che uno abbia internet, no? E che rimanga appunto in quello che ha pagato. Esattamente. Allora, noi sappiamo, una delle applicazioni più famose per telefonare via internet è Skype. WhatsApp si è diffusa tantissimo, ma con WhatsApp non possiamo telefonare. Allora, pare che, cioè, sia abbastanza certi che la prossima versione dell'applicazione WhatsApp, poi bisognerà vedere se l'aggiornamento sarà prima per Android o per iOS, bla bla, certo, bla, aprirà questa possibilità, si potranno fare le telefonate. Quindi uno potrebbe, cioè, non so, io e te ci scambiamo messaggi, poi schiacciamo il tasto cornetta telefonica e ci facciamo anche una telefonata via Skype. Allora, devo anche dire che su molti piani telefonici oramai le telefonate sono pressoché gratuite, perché molti piani telefonici prevedono 1000 minuti di telefonate comprese nel piano, quindi questa, per molti utenti questa possibilità forse non cambia molto i giochi. Devo anche dire che per l'estero invece certo, le cambia. Perché io, se devo chiamare l'estero, perché mi costa molto di più, invece se io sto whatsappando, oppure cosa posso utilizzare per chiamare? Di altre applicazioni? Sì. Allora, ci sono varie altre applicazioni. Skype è sicuramente la più diffusa, la più nota. Poi bisognerà vedere anche quale sarà la qualità con cui WhatsApp ci permetterà di telefonare, certo. Questo è importante. Allora, quasi tutti i sistemi operativi, tutti adesso, come ce ne fossero 100. Allora, i sistemi operativi principali, quindi parliamo di iOS, Google, Windows Phone, hanno una soluzione integrata per chiamare gratuitamente Apple, Google e anche Microsoft. Se vogliamo andare verso le cosiddette terze parti, quindi sistemi come WhatsApp, che ricordiamo è di Facebook, non è stato ancora integrato col mondo Facebook, chissà se succederà. Però Mark se l'è comprata. Esatto. Allora, due tra le più famose che ci permettono anche di telefonare. La prima è Viber, scritto Viber, molto, molto diffusa, abbastanza popolare. Un'altra che pare, però andare a scoprirlo veramente è sempre molto complicato, sia molto diffusa tra i più giovani, si chiama Telegram. Sì, cioè così. È complicato perché non essendo noi tra i più giovani. Sì, ci sono molte ricerche, però poi le ricerche hanno sempre dei punti con qualche dubbio, con molti punti di domanda. Comunque Telegram è un'altra di queste applicazioni. Allora, tutte queste applicazioni sostanzialmente fanno... non dico le stesse cose, magari fanno la medesima cosa in modo più o meno diverso, cioè la messaggistica in tempo reale, anche le telefonate, poi si possono fare, che ne so, chiamate di gruppo, che può essere molto interessante per una piccola azienda se deve fare una riunione. Ci sono sistemi costosissimi per fare le cosiddette conference call. Oggi questi sistemi permettono di fare gruppi di 10 persone o anche di più, oppure pagando anche pochissimo, aumentare la quantità di persone che possono partecipare ad una riunione. Ma dico banalmente, dobbiamo organizzare le vacanze, facciamo una bella riunione telefonica in 5 in 6 e ci raccontiamo dove vogliamo andare. Magari io abito a 10 km di distanza dal mio amico e facciamo del nostro una conference call, no? Facciamo come quelli che spendono un sacco di soldi. Esatto. Poi cito anche, l'avevo ricordato l'ultima volta che abbiamo parlato di queste cose qualche mese fa, un'applicazione italianissima che si chiama Induna. E qui è quasi più difficile lo spelling di Induna, sì. Che è sarda, è di Tiscali. Ha un buon successo in alcune parti del mondo, soprattutto Induna è scritto Indoona con due O. Una delle caratteristiche di Induna è che, essendo di un operatore telefonico, inclusa all'interno di questa applicazione ci sono anche una serie di minuti, cambiano rispetto a promozioni nel tempo, comunque solitamente sono inclusi minuti per chiamare, quindi anche Induna può essere usata per telefonare gratuitamente. Poi vedremo quello che farà WhatsApp. Siamo a e lo scopriremo. Grazie Enrico per essere stato con noi. Buona oggi giornata. È una giornata un po' difficile. Ti lascio andare a fare il giornale radio. Perché ti risentiamo alle 16 col GR24. Ci sarà Roberta Pellegatta. Ci sarà Roberta Pellegatta, però tu lo stai preparando. Quindi adesso ti lascio andare a lavorare. Ti lascio andare subito. Mescolare la minestra. Grazie ciao, Enrico. Minestra. Allora, noi ci risentiamo tra poco, perché adesso è il momento di aggiornarci sulla situazione su strade e autostrade. Poi ci ritroviamo ancora con il nostro Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E ora è il momento di parlare di una delle serie televisive più amate, di una delle serie televisive più popolari del momento. Basta qualche secondo per capire subito di cosa stiamo parlando. Sapete di che cosa nessuno vuole parlare? Dell'odio. Io so tutto dell'odio. L'odio inizia dalle viscere, in profondità, qui, dove si gira e si rigira, e poi cresce. L'odio cresce in fretta, è vulcanico, erutta con delle parole bollenti. Gli occhi si tingono di un rosso fuoco, i denti si stringono così forte che sembrano come frantumarsi. Io ti odio, Dio! Sì, io ti odio! No, non ditemi che non l'avete mai detto prima, so che l'avete fatto. L'abbiamo fatto tutti, quando abbiamo provato un dolore che ci lacera dentro. Frank Underwood, il cattivissimo protagonista di House of Cards. Intanto le novità che arrivano dagli Stati Uniti: il 27 febbraio il lancio della terza stagione su Netflix, quindi il servizio a pagamento negli Stati Uniti. In Italia arriverà praticamente in contemporanea con un doppio episodio in lingua originale su Sky Atlantic nella notte tra il 27 e il 28 febbraio, poi dal 4 marzo gli episodi doppiati. Ma qualcosa di molto importante, perché finalmente andrà in onda in chiaro per tutti. tutti, e quindi questa quasi un'informazione di servizio in chiaro anche per chi non ha la Pay TV, da domani alle 21, 8 febbraio, sul canale 27, che è il canale in chiaro di Sky TG24. Abbiamo chiesto il perché della scelta di portare proprio House of Cards e proprio su Sky TG24 in chiaro al direttore Sara Varetto. È una scelta anche molto coerente se si pensa qual è il tema di House of Cards, una serie incredibile che ha cambiato la storia delle serie televisive, raccontando da vicino gli intrighi del potere all'ombra della Casa Bianca e non soltanto. Abbiamo questa opportunità, ricordiamo anche che ovviamente su Sky Atlantic, in esclusiva per gli abbonati Sky, sarà disponibile tra pochissimo, da fine febbraio, la terza stagione, ma abbiamo preso questa decisione, essendo ormai a pochi giorni dopo il debutto di Sky TG24 sul canale 27 del digitale terrestre, gli intrighi, Frank Underwood, Kevin Spacey, eccezionale, in una forma mai vista, ma anche Robin Wright, sua moglie, con un racconto da vicino davvero di quelli che sono i meccanismi del potere, della politica, è un qualcosa che ha affascinato, lo sappiamo, perché ne avete parlato anche voi tante volte, anche i politici di casa nostra. Direttore, ma tu sei appassionata per prima, sento, di House of Cards? Io sono appassionata di House of Cards perché trovo che sia un meraviglioso ritratto degli intrighi e poi ha una sceneggiatura che possiamo definirla, insomma l'hai vista anche tu, quasi shakespeariana, un intrigo, un potere che si sviluppa, che anzi avvolge il telespettatore, perché poi c'è questo elemento bellissimo di Kevin Spacey che spesso si rivolge direttamente a chi sta guardando la serie e lo coinvolge, lo porta dentro la storia. Allora, da domani sera alle 21 su Sky TG24, canale 27 del digitale terrestre, non fate come me che non lo trovate perché non avete risintonizzato il decodificatore, perché sennò non lo trovate. Brava. 27. Grazie, fammi fare anche la parte del direttore antennista. Noi siamo ovviamente sempre Sky TG24 sul canale 100-500, ma abbiamo debuttato dalla fine di gennaio anche sul digitale terrestre. Siamo finiti qui, in questa fogna. Eri una star del cinema, ricordi? E questo è in realtà uno dei film che io aspettavo di più al cinema, che io aspettavo che i miei amici potessero vedere al cinema, perché noi di solito spesso abbiamo l'opportunità di vederli in anteprima. Birdman, un film che finalmente esce al cinema, io non so, io consiglierei a tutti di vederlo. Chissà cosa ne pensa Franco D'Assisti. Buongiorno Franco. Ciao Marta. Guarda, io lo consiglio talmente tanto che l'ho rivisto dopo averlo visto all'apertura della mostra del cinema di Venezia, in quel caso con la fortuna che io, come dicevi tu, con qualche privilegio che abbiamo, ho avuto di vederlo in lingua originale, perché questo è un film di recitazione, è una delle più belle prove di attori che si siano viste negli ultimi anni. Ci sono momenti Michael Keaton, Edward Norton, Michael Keaton, Emma Stone, ci sono momenti davvero di grandissima intensità, e sentirli per come sono è una grande possibilità. Io penso che questa possibilità verrà data poi nei circuiti anche della distribuzione, qualche grande città il film in lingua originale lo fa, sì. E quindi non fatevelo scappare. Ma comunque, io che sono spesso critico con, non con i doppiatori, ma con il senso del doppiaggio dei film, che spesso appiattisce la recitazione, devo dire che qui è stato fatto veramente un grandissimo lavoro, quasi miracoloso, anche sul doppiaggio, perché anche nella versione italiana che ho rivisto in sala qualche giorno fa, si riesce a rendere la ruvidità, per esempio, del personaggio di Michael Keaton, questo attore che, come dire, ormai è contrassegnato dalle sue scelte più che artistiche, economiche. Un attore che è diventato famoso grazie a questo personaggio di Birdman, questo supereroe piumato, e che non riesce a scrollarsi di dosso, anche letteralmente, questo personaggio, e che cerca una rivalsa artistica, forse più una conferma di se stesso, in una pièce teatrale a Broadway tratta da Raymond Carver, nella quale sembra credere solo lui fino in fondo, fino a quando sul set non arriva questo altro super attore che è Edward Norton, un po' pazzo, però che riesce a tirargli fuori il meglio e il peggio di sé, sicuramente a fargli capire chi è e a cercare di fargli prendere una decisione sulla sua vita. Un film straordinario, tra l'altro anche tecnicamente Iñárritu gira in una sorta di finto piano sequenza, perché il film, diciamo, abbraccia un arco di 5 giorni di racconto, però sembrano tutto uno, è tutto girato senza stacchi, senza controcampi. E raccontava Zach Galifianakis, il barbuto della saga della Notte da Leoni, per intenderci, che qui fa il manager di Keaton, che lui aveva una paura folle perché arrivava magari la sua battuta dopo 10 minuti di girato, e se lui avesse sbagliato dovevano rifarli tutti e 10, e sentiva che sul set lo odiavano. Ecco, questo per dirvi anche come è stato realizzato questo film, che è assolutamente la proposta della settimana. Le 9 nomination all'Oscar non sono lì per niente. Eh sì. Jupiter, il destino dell'universo, sono curiosa di sapere cosa ne pensi di questo film dei ormai fratello e sorella Wachowski. Eh sì, guarda, io vorrei dire degli ormai ex fratelli più sì. E sorella, perché almeno ex cinematograficamente, poi aspetto sempre che mi smentiscano, però devo dire che le ultime scelte loro, a partire da Cloud Atlas o da Speed Racer, non è che siano state proprio fortunate, e anche in questo Jupiter secondo me c'è il continuare a insistere su qualcosa di estremamente già visto, che è un po' deludente per chi ci aveva fatto vivere l'epopea di Matrix, che lo si fosse amato o meno, è stato sicuramente un film che quegli anni li ha contrassegnati, anche con una certa filosofia e tutto. Invece qui siamo proprio alla favola per ragazzi, niente da dire sotto il profilo visivo, effetti sonori, effetti speciali grandissimi, quindi 3D, tutto quello che vuoi, però insomma pesca un pochino di Hunger Games, un pochino di Twilight, un pochino di qua e un pochino di là, alla fine la solita fantascienza distopica, l'amore fra il licantropo e la ragazza, insomma abbiamo già visto tutto, se hai più di 15 anni ti sta un po' stretto. Almeno loro sono belli, dobbiamo dire senza, che almeno loro due senza dubbio, anzi assolutamente citiamoli, Mila Kunis e Channing Tatum, che sono i due protagonisti. Coi ragazzi andiamo a vederlo. Io ho guardato un po' le uscite di questa settimana. Mi Uni, il guardiano della luna, io non l'ho visto, lo andiamo a vedere in famiglia? Guarda, assolutamente sì, e proprio in famiglia, perché in questo caso è un'animazione che mette insieme, anche per il suo tratto artistico, mette insieme sicuramente le esigenze dei grandi e dei piccoli. La storia è molto tenera, è la storia di questi guardiani del giorno e guardiani del sole e della luna, che diventano anziani, devono scegliere i loro successori, non tutto va per il meglio e succede qualcosa. Ora è una favola, una vera e propria favola, i tratti dei personaggi disegnati sono molto teneri, sono molto vicini ai bambini, ma la poetica pittorica del film è qualcosa che sposta più quasi verso Miyazaki che non verso la DreamWorks, quindi è un bel incontro di generi ed è davvero una bella realizzazione per tutta la famiglia. Per concludere, in questo periodo martellati dagli spot di Non sposate le mie figlie, commedia francese di enorme successo in Francia, vale la pena? Ma guarda, vale la pena, perché come hai detto tu, enorme successo in Francia, milioni di spettatori, ricordiamo sempre che il mercato francese è un filino più grande del nostro per quanto riguarda il cinema e anche la cultura cinematografica, intendo dire la cultura dell'andare al cinema anche a vedere prodotti commerciali e popolari come questo. Qui si prendono due semi. Uno è quello di Indovina chi viene a cena e l'altro è quello di Parenti serpenti o delle famose cene di Natale nelle quali succede di tutto, si mettono insieme, si mischia con un po' di Quasi amici ed ecco fatta, grazie a una regia attenta e accorta, grazie a protagonisti che sono attori importanti come Christian Clavier della commedia francese, una bella commedia popolare che ti fa anche fare quel filino di riflessione su chi siamo, perché i temi appunto sono quelli della convivenza di due culture che si scontrano, dell'accettazione o meno. Su queste cose in Francia si costruisce un successo da milioni e milioni di spettatori. In Italia è partito molto bene, vediamo dove arriverà. Grazie Franco, noi ci risentiamo invece con La Rosa Purpurea dopo il giornale radio delle 18. Delle 18, siamo lì, vi aspettiamo con un'ora di cinema. A presto, grazie Franco. Ciao. Il sabato del villaggio. Buongiorno, eccoci con la seconda ora del sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale e questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, e poi nella terza ora dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi continuate a tenermi compagnia. linea con l'SMS 349-238-6666, il mio account di Twitter chiocciola Marta Cagnola, l'hashtag sempre su Twitter cancelletto ISDV. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora, della seconda ora, scusate, che passeremo insieme, i libri del momento, anzi gli scrittori del momento, Gianrico Carofiglio e Clara Sanchez, poi la passione per lo shopping dei turisti stranieri, ma anche come farsi confezionare abiti su misura low cost nel nostro spazio dedicato ai consumi con Maria Luisa Pezzali. Ne abbiamo già parlato in questa stagione teatrale, tanti attori popolari presso il grande pubblico affrontano i classici, con noi sarà Alessandro Preziosi, ma prima un ritorno discografico, un personaggio sempre straordinariamente amato. Si difende, comunque viene da sé. Ovunque vada l'amore come lava, brucia la vita che c'è. L'amore corre. Allora, non posso non raccontarvelo. Quando l'ho incontrato questa settimana, io ho fatto un selfie con lui. Non lo faccio mai, ma non potevo resistere. Beh, lo avete riconosciuto, è Miguel Bosé. Quando ho postato questo selfie è stato condivisissimo su Instagram, poi mi hanno scritto tutti i miei amici e le mie amiche su WhatsApp. Miguel Bosé è sempre amatissimo. Adesso ritorna in Italia, è tornato il 27 gennaio con Amo, il nuovo album di inediti. Questo era Encanto, l'incanto nella versione italiana, ma appunto il titolo di questo album è Amo, e allora non potevo non farvi ascoltare questo incontro. Lui è un personaggio davvero straordinario, perché Amo, Miguel Bosé. E la canzone è la prima nata nell'album, la matrice di quest'album è quella che contiene tutto il resto, cioè che cos'è Amo, che di cosa parla Amo. Amo parla della conoscenza, parla del sapere, della curiosità, della necessità di imparare costantemente, di lasciarsi affascinare, di tutto in assoluto, quello che uno conosce, quello che uno non sa, di quello che uno intuisce, insomma, secondo me, una delle chiavi della felicità reside nella curiosità, non perdere la curiosità insaziabile, e questo è uno dei tratti del mio carattere, senz'altro. Quando eravamo ragazzine ci hai fatto credere che l'amore fosse facile e possibile, adesso invece ci metti dei dubbi. Ma quando uno ha 17 anni, l'amore è il bacino, no? Glielo darò, me lo darà, glielo ruberò. Quando uno ha circa i 30 anni e sarà incinta o no, e lì vengono tutte le crisi, e quando hai 50 anni e chi rimane con l'appartamento, sono tutte forme d'amore, però, capito, in evoluzione. In questo caso comunque quest'album è molto colorato e le forme d'amore delle quali parlo in questo album sono molto diverse, sono tante storie che hanno a che vedere con l'amore, però c'è un divertimento, no? Non soltanto sofferenza. Non posso non chiederti qualcosa di Si se puede, perché io ho letto tante interviste che hai rilasciato in Spagna e ti hanno chiesto tanto se era un manifesto politico, un'adesione ad esempio a Podemos, ti hanno chiesto tante cose di questo testo di Si se puede. Perché hai deciso di fare questa canzone? Si se puede non c'entra niente col discorso di Podemos. Podemos è il yes we can di Obama, no? Si se puede, infatti, sì, è vero, sì possiamo recuperare una Spagna come era 3 anni fa, prima che arrivasse questo governo incapace e debole, che è estremamente conservatore e liberale, che ha privatizzato tutto quello che noi con le nostre tasse avevamo costruito, perché fosse compartito, fosse condiviso con tutta la cittadinanza, no? E Si se puede sì, possiamo ritornare ad avere tutto quello, che è quello, il discorso che vuole ascoltare, vogliamo ascoltare tutti, no? Per quello credo che Podemos è molto salutare, no? Anche per rompere dopo te decadi questa specie di privatizzazione che c'era della politica, della democrazia bipartidista, no? Molto, però il mio sì se puede fa un altro discorso, e si possono fare tutte queste barbarità che si pensano che non si possano fare. Certo che si possono fare, le stanno facendo. In Italia abbiamo sempre il vizio, quando tu ad esempio vai in televisione, di rimostrare le immagini degli anni Ottanta. Questa cosa ti fa piacere? Io lo capisco, sono state quasi traumatiche all'epoca, per cui è quasi inevitabile. Qualcuno mi diceva che prima che tu non arrivassi in Italia, ho assistito a Milano al primo concerto dove per prima volta ho visto accampare la gente fuori due giorni prima con la tenda, dormendo, mangiando per delle giornate. Questo non si era mai visto per un artista di una generazione che cercava ovviamente il suo idolo, per cui sei stato un trauma quando sei arrivato. Hai cambiato molte cose per noi giovani, ma anche per i nostri genitori, che ovviamente avevano perso il nostro controllo. Ma hai qualcosa da rimproverare al pubblico italiano, perché poi sei un po' distratto? No, ma la colpa, ne parlavo adesso con dei tuoi colleghi, credo che forse è stata più colpa mia nel perché hanno perso, cioè con Bandido, con Indio, così si chiamava in italiano, questo disco fantastico prodotto da Roberto Colombo, questo qua apparso in Indio, in Bandido, era drasticamente diverso a quello che diciamo aveva una sonorità, un mondo molto più mediterraneo, perché qui il salto era più verso il mondo contemporaneo sassone, che è degli anni Ottanta, che si ascoltava in giro per il mondo, no? E l'Italia non mi ha più riconosciuto, giustamente, ma tanti non mi hanno più riconosciuto, soltanto che per molti mercati questa sorpresa ha agito in positivo, per l'Italia è rimasta bloccata. Ci sono voluti altri anni, tanti anni, cioè si è voluto l'arrivo di una generazione completamente nuova che ha scoperto con Se tu non torni una canzone, un artista del quale non conosceva assolutamente nulla. Che effetto ti ha fatto cantare quattro canzoni in italiano? Che effetto, che cosa? Perché noi ti consideriamo sempre italiano, lo sai, abbiamo questo vizio. Sì, no, ma la regista dei due video, no? Una donna, si chiama Beatriz Abad, quando ho fatto la versione italiana-spagnola, dice: incredibile, perché quando canti in italiano ti cambia la faccia, cioè non hai la stessa espressione nel personaggio, lo stesso personaggio, quando canti la storia in spagnolo, dove sei molto più, con un volume molto più grande, quando canti in italiano tutto diventa molto più magico, molto più etereo, molto più luminoso. Perché succede così? Dico, ma non so, dicono che tu appartieni molto alla lingua che ascolti quando sei nel ventre di tua madre, e mia madre, quando mi aveva dentro il suo ventre, non parlava lo spagnolo ancora, parlava italiano soltanto, per cui sentivo quelle risonanze in italiano che le mie sorelle, è vero che non hanno, perché non parlano così tanto l'italiano come lo parlo io, come non sono così abituate a fare. Sono più vicino io alla lingua e alla cultura italiana, ai gusti italiani, insomma all'Italia, che non le mie sorelle. Amo ogni cosa che vola, amo ogni cosa che nuota, amo ogni singolo. E beh, era Miguel Bosello, sapevo che mi sarebbero arrivati un sacco di messaggi anche questa volta, perché lui è sempre un personaggio popolarissimo anche quando manca dall'Italia. Ora però è il momento di dare la linea agli aggiornamenti sul traffico, perché sono già le 16:16, siamo in ritardo di un minuto e mezzo, tra poco parliamo di libri, ma ora è il momento di tutti gli aggiornamenti della viabilità. Il sabato del villaggio. E presto, presto, perché è il momento di parlare di libri, entriamo subito in atmosfera. entriamo in una bella atmosfera con questa che, non so, è una colonna sonora. Da dove viene questa musica? Perché l'ha scelta la nostra esperta di libri, Alessandra Tedesco? Buongiorno Alessandra. Buongiorno Marta. L'ho scelta perché quando ho pensato a questo libro ho detto non è ancora stato tratto un film, quindi non abbiamo una colonna sonora, non è stata tratta ancora una serie televisiva, dico ancora perché secondo me prima o poi succederà. E allora ho visto che sono andata a ricercare il book trailer di questo romanzo e c'era questa musica di Kevin MacLeod. In realtà non era proprio questa la musica, era un'altra. Vabbè, non svegliamo tutto, però. mi dava l'idea di questa cosa, di quello che deve indagare in un contesto molto molto strano. Vabbè, insomma, presentato così non sembra bellissimo, invece il libro è bello. È un libro di cui stanno parlando tutti. Sì, stanno parlando tantissimo di questo libro in questo periodo. Noi ne avevamo accennato nel Sabato del Villaggio tempo fa, ma se ne continua veramente a parlare. È un libro che è ancora sempre in classifica. Allora sveliamo qual è questo libro. Si intitola La regola dell'equilibrio, l'ha scritto Gianrico Carofiglio, pubblicato per Einaudi. Ogni volta che Carofiglio scrive un libro, lo sappiamo, va sempre in classifica, è molto amato dai lettori italiani ma anche all'estero, ma soprattutto quando torna il suo personaggio seriale dell'avvocato Guido Guerrieri, e in questo caso è tornato Guido Guerrieri. Ma cosa combina in quest'ultima fatica di Gianrico Carofiglio, l'avvocato Guerrieri? Marta, stavolta c'è un caso veramente delicato perché riguarda un suo amico, un suo amico che fa il magistrato, classico uomo tutto d'un pezzo, si chiama Pierluigi La Rocca. Lo chiama un giorno e gli dice: guarda, ho bisogno del tuo aiuto. Perché? Perché secondo voci di corridoio gli risulta essere indagato per corruzione. E chiaramente la corruzione è l'accusa più infamante per un magistrato. Sentiamo un po' come la racconta Carofiglio. Sì, è un'accusa di corruzione, la peggiore probabilmente che si possa rivolgere a un magistrato, e la storia nasce da là, si articola tutta quanta, perlomeno per quello che riguarda il plot, perché poi ci sono altre cose, su quella zona instabile in cui non si capisce bene se il soggetto è o meno colpevole, quanto lo è, se lo è quella zona in cui è anche difficile distinguere i comportamenti giusti da quelli sbagliati, quello che è moralmente discutibile, quello che è penalmente rilevante, cioè un reato, fin dove si spingono, si possono spingere le giustificazioni, fin dove non dovrebbero. È molto, credo, questo un libro sull'attitudine diffusa e pericolosa che quasi tutti abbiamo a cercare e purtroppo a trovare autogiustificazioni e autoassoluzioni. In questo senso la regola dell'equilibrio è esattamente l'opposto, il senso del titolo è questo qui. Tutti quanti noi tendiamo a raccontarci un mondo che per certi aspetti non esiste, una verità che è a nostro uso e consumo. C'è una citazione di Dostoevskij nel romanzo che dice: chi mente a se stesso e presta ascolto alle proprie menzogne arriva al punto di non distinguere più la verità né in se stesso né intorno a sé. Ecco, questo è l'opposto della regola dell'equilibrio. La regola dell'equilibrio è cercare nei limiti del possibile di non divorziare dalla realtà, perché nel momento in cui si perde il contatto con la realtà attraverso il racconto che a noi stessi facciamo della nostra vita e delle nostre esperienze, il pericolo di una deriva, diciamo, incontrollabile. Che bella voce ha peraltro Gianrico Carofiglio, Alessandra, che bella. Sono molto incuriosita anche di leggere quest'ultima avventura dell'avvocato Guerrieri. Sì, l'avvocato Guerrieri, come dicevo, è un personaggio seriale molto molto amato dagli italiani ma anche all'estero. Se non erro era un giornale, sì, inglese, che titolò l'avvocato Guerrieri è un personaggio meraviglioso, insomma speciale, quindi è amato anche all'estero. Poi l'avvocato Guerrieri è uno simpatico, perché, oddio, simpatico, diciamo che uno che piace, uno che piace anche alle donne. Lui per esempio ha la mania della box, tutte le volte che deve riflettere su qualcosa, su un caso, sulle sue vicende personali, sulle sue vicende professionali, tira di box, quindi ha questo sacco con il quale lui parla. E infatti nell'intervista più estesa, diciamo, a Gianrico Carofiglio, che andrà in onda stasera nel Cacciatore di Libri alle 22, potrete sentire questo strano rapporto che anche Gianrico Carofiglio ha con il suo suo sacco da box, perché lui lo definisce il suo psicoterapeuta. Bello, mi piace. Perché sta lì, come dire, incassa i colpi, ascolta, non risponde, non giudica, e però alla fine dondolando dà un senso di risposta alle domande che ha o guerrieri o caro figlio. E quindi uno dei libri di cui si parla tantissimo in questo periodo è appunto l'ultimo di Gianrico Carofiglio, che è in classifica ormai da secoli, da settimane. Sì, perché è uscito prima di Natale, quindi insomma ha avuto anche il boom a Natale, La regola dell'equilibrio, pubblicato da Einaudi. E passiamo invece al secondo libro di cui parlano tutti e di cui non possiamo non parlare in questa puntata del Sabato del Villaggio. Anche questa mi sembra un po' una colonna sonora. A cosa ci riporta? Di quale libro ci parla, Alessandra? Questo era lo sfondo, diciamo, lo sottofondo musicale del book trailer del Profumo delle foglie di limone. Era stato un successo clamoroso, non solo in Italia, ma insomma anche in altri paesi, naturalmente in Spagna, paese natale della scrittrice Clara Sanchez, nel 2010. E l'ho scelto perché in questo periodo, in questi giorni, si sta parlando moltissimo in Italia di Clara Sanchez, perché sarà appunto da noi per presentare la sua ultima fatica, che si intitola Le mille luci del mattino, pubblicato come sempre da Garzanti. C'è proprio un tour come una rockstar. Esattamente, ma sai che ormai molti scrittori, soprattutto quando sono particolarmente famosi, considera che Clara Sanchez è una delle scrittrici straniere più amate in Italia. Ogni volta che esce un suo libro raggiunge sempre livelli alti della classifica. A parte Il profumo delle foglie di limone, c'è stato Entra nella mia vita, Le cose che sai di me. In realtà non sono i primi libri che lei ha scritto, ne ha scritto anche altri, ma questi hanno avuto un successo clamoroso in Italia. E quindi quando gli scrittori sono particolarmente famosi, non so, Dan Brown, Clara Sanchez, ma anche altri, organizzano dei veri e propri tour nelle librerie oppure nelle biblioteche italiane per incontrare i lettori, perché insomma poi è una formula che funziona sempre. Quando si vede da vicino lo scrittore, poi viene voglia non solo di comprare il libro, ma magari di comprare anche i libri precedenti, un po' come quando vai a un concerto, esci fuori e ti viene voglia di comprare il disco, di ascoltare sempre quella musica. Con gli scrittori è lo stesso. Appuntamenti italiani quindi di Clara Sanchez? Sì, appuntamenti italiani, lunedì 9 febbraio a Milano, poi martedì 10 Bassano del Grappa, mercoledì a San Donà di Piave, giovedì 12 a Legnano, venerdì 13 a Bergamo. Insomma un piccolo tour, però insomma i fan, le fan diciamo soprattutto, è una scrittrice che si rivolge soprattutto alle donne, di Clara Sanchez, possono avere l'occasione di incontrarla e scoprire qualcosa di più di questo suo ultimo libro, Le luci del mattino, di cui si sta già parlando parecchio. È un libro particolare perché la protagonista è una ragazza, Emma, che lavora in un... fa l'impiegata, diciamo, in un'azienda. Ha un capo piuttosto strano che sembra non fare niente durante tutto il giorno perché passa tutte le sue giornate a leggere libri. Beato lui! Beato lui, da appunto. Dire. Poi lei un giorno scopre qualcosa, perché ci sono sempre dei misteri nei romanzi di Clara Sanchez, apre uno scatolone che non avrebbe dovuto aprire, lui muore, lo diciamo perché si può dire già da subito, lei si sente in colpa per la morte di lui e poi succederanno delle cose che non possiamo raccontare. Quindi non abbiamo svelato la fine, succede proprio all'inizio. Sì, succede proprio all'inizio e, come ti dicevo, tra l'altro Clara Sanchez è una delle autrici più amate in Italia, ma anche in Spagna non scherza, perché è l'unica che ha vinto i tre principali premi letterari spagnoli, l'Alfaguara, il premio Nadal e il premio Planeta. Poi considera che in Spagna danno un sacco di soldi. Però è come da noi Sanchez, che per un premio letterario si prendono 5.000, 10.000 euro, là sono botte di 100.000, 150.000 euro a premio. Complimenti signora Sanchez. Il consiglio di questa settimana, io già mi diverto perché vedo tante cose sul tavolo. I libri ascoltati alla radio. Eccoli, già si sente che la copertina è rigida, non è mica quelle copertine molli che poi in borsa si rovinano tutte. No, però vi do dei consigli low cost, perché insomma spesso mi dicono, ma i libri costano tanto, non apriamo questa parentesi, perché dico e ripeto spesso, pizza e birra costano almeno 15 euro e ti danno soddisfazione per mezz'ora, un libro magari per qualche giorno in più. Ma a parte questa battuta per cui tutti i pizzaioli mi odieranno, ti consiglio un po' di libri di questa collana che si chiama chiama Le bussole di Guanda. Sono tutti libri molto molto famosi, sono stati libri di successo, con questa copertina rigida, rifatta, quindi molto bella, molto carina, hanno una dimensione piccola, costano tutti intorno ai 10 euro, giusto per farti qualche titolo. Nick Hornby, è presente lo scrittore inglese, Alta Fedeltà, certo. E Un ragazzo da cui fu tratto il film A Boy, quindi sono due libri veramente belli. L'americano Jonathan Safran Foer con Ogni cosa illuminata, anche qui un film molto noto. Poi non so, scegliamone, ecco questo qua giallo, Trainspotting di Irvine Welsh, a proposito di film, e sono tutti libri copertina rigida delle bussole Guanda, costano intorno ai 10 euro. L'unica avvertenza, ecco lo diciamo, che essendo edizioni appunto cosiddette economiche, seppur poi piccine belle, la carta è bella, la copertina è bella rigida, sono scritti un piccolo, insomma, come tutte le edizioni economiche, quindi se avete superato gli ANTA magari dovete mettere gli occhiali come me, altrimenti se avete una vista potente vanno benissimo. Ah, è straordinario, mi sembra il formato giusto per i mezzi pubblici. Sì, aereo, ecco, se non hai l'ebook a disposizione ti porti uno di questi, spendi solo 10 euro e ti leggi dei capolavori. Grazie anche per i consigli di questa settimana ad Alessandra Tedesco. Invece il consiglio che voglio dare io è quello di ascoltare Il Cacciatore di Libri. Quando, Alessandra? Stasera l'abbiamo detto con Gianrico Carofiglio alle 22, in genere il sabato se vi svegliate presto, non come me che si... alle 6:30 del mattino, e poi naturalmente potete seguirmi anche su Twitter come Ale Teddina, in modo tale che siete sempre aggiornati su quello che sto leggendo, chi sto intervistando e chi potrete ascoltare la settimana successiva. Grazie mille, grazie ad Alessandra Tedesco. Il sabato del villaggio. E ancora buongiorno con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio in diretta 16:32, è sempre il nostro villaggio globale, questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, libri e consumi. Ciao Fuffi! Ciao Cocco, è la Marisa! Ma la Marisa è andata al cinema, sai? Però qui il cinema scoppi non mi piace! Hai proprio ragione, usano uno scopo così grande! Monte Napoleone, il salotto di Milano. E ci siamo trasferiti in via Monte Napoleone, chissà se ancora il salotto di Milano. Beh, abbiamo con noi in studio la nostra esperta di consumi di nuove tendenze, Maria Luisa Pezzali, lo chiediamo direttamente a lei. Buon pomeriggio Maria Luisa. Buon pomeriggio Marta, a te e agli ascoltatori. Sì, ancora il salotto di Milano, ma molte cose sono cambiate, le andremo a raccontare tra pochissimo, perché oggi parliamo di acquisti di lusso, appunto, in particolare di tax free shopping, cioè degli acquisti esentasse, in pratica quelli che permettono agli acquirenti che non risiedono nel paese dove comprano, quindi su tutti i turisti, di recuperare l'IVA pagata sugli articoli acquistati. È un discorso che vale ovviamente anche per noi italiani quando siamo in viaggio in determinati paesi, oppure per il classico acquisto nei duty free degli aeroporti che tutti conoscono, dove lo sconto è applicato subito, però senza dover invece poi richiedere il rimborso. Ovviamente i flussi degli acquisti tax free raccontano tante cose: quali turisti comprano, che cosa comprano, con quale scontrino medio, dove comprano, quindi è come dire una lettura in controluce dell'economia che ci racconta tante cose. Peraltro è importante adesso che ci avviciniamo a Expo. Esattamente, appunto l'Expo che punta molto ai turisti, sì. Molte imprese, molte realtà italiane ci contano molto, insomma. La prima cosa da dire innanzitutto è che i top spender, quelli cioè che comprano di più in Italia, non sono più i russi, Marta. Ah, non sono più loro? Non sono più le borsate di shopping che mettono invidia quelle dei russi? Ebbene no, sono stati superati dai cinesi. Ah. Cinesi tra l'altro che non comprano più solo nelle boutique di via Monte Napoleone, appunto, per quanto riguarda appunto gli acquisti di lusso, ma anche negli outlet. Il cinese è molto sensibile al bargain, quindi all'affare, quindi visita molto anche gli outlet. Ma ci facciamo raccontare tutto da Antonella Bertossi, che è Marketing Sales Manager di Global Blue Italia. Global Blue è una società specializzata nei servizi connessi allo shopping dei turisti stranieri ogni anno appunto ci fornisce l'analisi degli acquisti tax free. Buon pomeriggio Antonella. Buon pomeriggio a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Buon pomeriggio. Partiamo allora dal dato che fa più notizia, sono i cinesi i nuovi top spender. Sì, esatto, ha avuto proprio informazione corretta. Infatti noi per il primo anno registriamo che ormai i turisti praticamente cinesi sono a pari merito con quelli russi. Notoriamente l'Italia è sempre stato un paese amato dai turisti russi, infatti Milano, via Monte Napoleone, via della Spiga, appunto rinomata per l'accoglienza, per la visita dei turisti russi. In realtà da quest'anno i turisti cinesi, anche perché questi stanno in effetti crescendo, sono diventati la nostra prima nazionalità nel portafoglio appunto della nazionalità che riguarda appunto il paese Italia. I turisti russi stanno decrescendo, ahimè purtroppo la nostra, in effetti la tendenza che noi riscontriamo è in continuo appunto peggioramento per le notorie naturalmente vicende dell'ambito del rublo, del prezzo naturalmente del gas e della situazione politica. Ma cosa comprano gli stranieri in Italia? Cosa comprano? Nel nostro osservatorio dipende dalle nazionalità, in generale sicuramente i brand del lusso sono quelli che sono più ambiti, poi le nazionalità emergenti come quelle asiatiche, hanno sicuramente a loro favore la possibilità qua di trovarli a un cambio naturalmente vantaggioso. I turisti cinesi amano particolarmente gli orologi. Tant'è che per darvi naturalmente un'evidenza, per esempio conoscono la Svizzera proprio come nazione degli orologi e questo anche ha contribuito ad alzare molto il loro scontrino medio che adesso si attesta intorno agli 800-890 euro. Vabbè, un bello scontrino, un bello scontrino. Avercelo Marta, avercelo. Sul territorio quali sono le città che primeggiano? Beh, sicuramente se noi parliamo di shopping, Milano la fa da padrona, non ci sono, anche se dipende dall'analisi. Se noi vogliamo parlare di shopping è sicuramente Milano, viene ovviamente la cattura molto più l'attenzione. Se vogliamo parlare di transiti è inevitabile che con l'aeroporto internazionale transitano da Roma, si fermano a Roma, Roma viene visitata perché ovviamente è un centro culturale ovviamente famoso nel mondo, ma poi l'attrattiva naturalmente su Milano è molto forte, per cui nell'ordine io direi sicuramente Milano, Roma e poi delle altre città, c'è una Firenze che è sicuramente amata dagli americani e che riconfermo naturalmente anche come tendenza per quanto riguarda i cinesi, poi c'è una Venezia, poi comunque ci sono tutte le altre località. Devo dire che noi come società, come Global Blue, stiamo attendendo l'Expo con grande entusiasmo, proprio perché ovviamente per noi è ovviamente una vetrina internazionale importantissima, ma anche una possibilità di una rivalutazione del territorio italiano per un futuro. Grazie ad Antonella Bertossi per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie mille. Grazie alla nostra ospite. E invece adesso Maria Luisa, siccome anch'io vorrei fare questo scontrino medio di 800 euro ogni volta che vado a fare shopping, quali sono i tuoi consigli anticrisi, i tuoi consigli per risparmiare e per spendere meglio questa settimana? Allora, parliamo di una grandissima tendenza, quella del su misura, però non parliamo di lusso perché no. Si associa sempre al lusso il su misura, quindi il tailor made, l'alto di gamma, lo ha confermato anche l'ultima settimana della moda uomo a Milano che ha molto puntato sulla sartorialità. Forse non tutti sanno che ora il su misura può essere anche low cost. Come? Attraverso il web, come sempre. L'online ci aiuta nelle nostre strategie anticrisi, sono molte quelle che passano da lì, come raccontiamo Marta ogni settimana. Lo facciamo anche oggi in compagnia della direttrice di Markup e GDO Week, Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Mi scuso subito per la voce perché ho un raffreddore terribile, quindi mi perdonerete dei miei bassi, troppo bassi. C'è anche Valeria in regia che non riesce a parlare. Beh, molto è la stagione. Diffusa, ti perdoniamo assolutamente. Allora, il su misura a low cost. Assolutamente, tanto è vero che uno dei siti che vi segnalo subito è Tailor for Less, con For scritto in numero. È un'esperienza, devo dire, divertentissima. In questo caso parliamo di abiti da uomo e di camicie su misura, dove si va sul sito, si sceglie il colletto, si sceglie il tessuto, si scelgono i bottoni, quanti, uno, due, l'asola come la si vuole, di quale colore, come si vuole il revers dietro. Questo vale per la camicia, ma vale anche per il trepezzi, vale per l'abito in cotone o per la sola giacca. I prezzi variano ovviamente in base al tessuto che si sceglie, più il tessuto è pregiato, più l'abito costa, però si parte da 199 euro, 200 euro per i tre pezzi. Poi se si supera una certa cifra, la spedizione viene fatta direttamente a casa, ma gratuitamente. L'unico, come dire, problema può essere prendersi le misure, perché obiettivamente un conto è il sarto con il suo centimetro che ti prende le misure per bene, ma nessun problema, perché ognuno di questi siti, vi cito anche itailor.com, sarto siciliano che sempre fa tutto online, hanno dei bellissimi tutorial, ognuno per ogni pezzo, quindi ognuno si può guardare il tutorial per come prendersi le misure del giro vita, piuttosto che con il giro pantaloni, piuttosto che della lunghezza. Quindi per ognuno, diciamo che facciamoci aiutare, se in questo caso parliamo di moda maschile, dalla moglie o dalla fidanzata, però potremmo non, come dire, non sbagliare, anzi direi che non sbagliamo. Se abbiamo anche qualche problema, ne arriva una bellissima startup tutta italiana che si chiama xyze.it, che sì, questo gruppo di ragazzi che sono stati peraltro premiati da San Paolo, parlo della banca ovviamente, e hanno inventato un aggeggio che con un elastico si infila o sulla testa se si vuole girare, misurare la circonferenza della testa, o sui fianchi o piuttosto che in vita, che parla direttamente al nostro iPhone, iPad o smart di qualsiasi genere e trasmette direttamente le nostre misure, le quali vengono messe poi tutte insieme e viene creato un profilo che così quando si fa shopping online le misure sono sempre precise e non si sbaglia ordinando una taglia piuttosto che l'altra. Cristina, non ci siamo messe d'accordo, Marta, lo giuro, domani i fondatori di Xyze, di questa pluripremiata startup, saranno ospiti di Essere Avere, domani alle 15, permettetemi questo lancio, però eravamo proprio in siamo tema. Siamo sul pezzo. E allora fagli le mie congratulazioni, perché non vedo l'ora di trovare, di mettere le mani su questa cosa, perché devo dire che a prendermi le misure non sono tanto brava, il marito non aiuta. Ma la particolarità poi di Xyze è che addirittura l'algoritmo alla base di questa startup permette di matchare, per così dire, i dati della misurazione del proprio corpo, delle proprie misure, con i parametri di produzione dei vari brand, perché lo sappiamo, non tutte le 44 sono uguali, o non tutte le medium o le large vestono allo stesso modo. Effettivamente hai ragione, in certi casi finisci in una large come se fosse una small, ahimè, e viceversa, per fortuna. E poi l'elastico ti potrebbe anche segnalare quando stai ingrassando, perché ti dice che la misurazione non è più quella della volta precedente. Tracciando tutte le tue misure in questo ti aiuta. Va bene, Cristina, altri siti? Allora, altri siti, sì, visto che ci sono anche un po' di donne, immagino, all'ascolto, c'è anche su misura.com. In questo caso passiamo al tailleur, passiamo alle donne, passiamo alle giacche, e su misura.com/IT, per cui sono tutti siti di fatto che producono, non certo in Italia, ma che hanno un design italiano e sono comunque, ci parlano in italiano. Se invece si vuole passare assolutamente all'internazionalità, c'è moderntailor.com, il sito è tutto in inglese, funziona più o meno alla stessa maniera, i pagamenti sono comunque calcolati in euro e le spedizioni sono intorno ai 20 giorni. Tutto questo però, le misurazioni appunto dicevi online, ma se volessimo fare qualcosa di diverso, ho saputo da Maria Luisa, che me l'ha già anticipato, che ci sono anche dei siti che offrono un servizio su appuntamento, ma come funziona? Allora c'è rajafashions.com, che in realtà gli appuntamenti li prende sì in giro per l'Europa, però l'appuntamento più vicino per l'Italia sta comunque in Svizzera. Allora, questo simpatico signore indiano si è inventato questo modello di business per cui la sua produzione rimane comunque in India o comunque presso o in Pakistan, però lui prende appuntamento, se uno va sul sito vede lo schedule delle sue presenze a livello europeo, e ovviamente le capitali sono quelli del denaro, Zurich, Ginevra, questo per la Svizzera, Bruxelles, Londra, eccetera, Beh, ti prende appuntamento in albergo, lui passa dalla tua camera, ti prende le misure, se le segna, le passa direttamente, arriva con i campionari di tessuto per cui si possono toccare, guardare alla luce, vedere i riflessi, eccetera. Si sceglie il tutto, poi lui manda tutto, gli lasci il numero della carta di credito, al ricevimento riceverà il tuo abito perfettamente in stile Regent Street, per cui puoi dire di aver fatto shopping a Londra in Regent Street, pur non essendo, non avendo pagato ovviamente le cifre richieste dai grandi sarti londinesi o dai grandi sarti italiani. Però ahimè, per questo momento questo signore dall'Italia non passa, però puntiamo, visto quello che ho sentito, tutto su Expo per vedere se il signor Raja passerà anche da Milano, almeno per i mesi di Expo. Fantastica, preziosa come sempre. Cristina, sabato prossimo. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Grazie a Cristina Lazzate, invece con Maria Luisa l'appuntamento a domani e la prossima settimana ancora Sabato del Villaggio. Grazie Maria Luisa Pezzali. Grazie a te, ciao Marta, un saluto a tutti. Il Sabato del Villaggio. Abbiamo già parlato, in questa stagione teatrale tanti attori popolari presso il grande pubblico affrontano i classici. Evviva, io sono stato assalito dai rimorsi. Sì, ho aperto gli occhi dell'anima su ciò che stavo facendo e ho riflettuto che per prenderti in moglie ti ho sottratto alla clausura di un convento facendoti infrangere i voti già presi. Io so che Dio ha per queste cose un geloso attaccamento. Preso dal rimorso, ho temuto la colera celeste e ho pensato che il nostro non fosse che un adulterio sotto mentite spoglie, che insomma avrei dovuto cercare di dimenticarvi e di lasciare che voi tornaste al vostro più sacro legame. Avreste voi, madame, il cuore di opporvi ad un così devoto pensiero e che io, trattenendovi, sfidi il cielo e che... Che disgraziato! Fino al 15 febbraio a Milano, al Teatro Nuovo, beh, lui è uno dei personaggi più amati della storia del teatro, il Don Giovanni di Molière. Ma parliamo con l'interprete che è uno degli attori più amati della scena italiana e anche della televisione, dobbiamo dirlo. Buonasera Alessandro Preziosi. Buonasera a te Marta, tutto bene? Tutto bene, questo Don Giovanni come sta, questo Don Giovanni di Molière? Hai detto a un certo punto il personaggio più amato della storia del teatro, ho detto ah, non esageriamo, anche che si parla di Don Giovanni, ormai io e Don Giovanni siamo una cosa sola. No, è un'esperienza questa... molto bella, accattivante, affascinante, sia dal punto di vista interpretativo che proprio visivo, anche se io sono quello che ha creato questa visività insieme ai miei straordinari collaboratori, però ne sono veramente entusiasta. Alessandro, non è il primo classico che ti ritrovi a interpretare, che hai deciso di interpretare, anzi è la terza opera, potremmo dire, che tu hai deciso di portare in scena. È parte di una trilogia. È un po', c'è un po' una responsabilità da parte tua, perché tu sei un volto estremamente popolare e quindi ti tocca dover avvicinare il tuo pubblico che ad esempio ti conosce in televisione o al cinema e portarlo a teatro. Guarda, io credo che lo dicesse Fraiano, i classici vale sempre la pena leggerli e chi dice che non vale la pena leggerli si sbaglia. Nel senso, è così vale per quelli che si possono portare a teatro, perché sono un modo, da parte mia, di non tanto di avvicinare il pubblico, ma quello di stimolarli, di provocarli anche a volte, no? Loro sono abituati a vedere delle cose di intrattenimento molto più leggero, con temi molto più melò, diciamo, e anche a volte il cinema con altri temi. Ma anche il teatro è una forma di intrattenimento molto leggero, se si parte dal presupposto che i classici bisogna saperli riadattare al gusto pop delle persone. Per cui più che una responsabilità, a me mi sembra quasi un dovere, perché comunque io ricevo tantissimo dall'attenzione anche dal punto di vista economico, perché bisogna dirlo, cioè nel lavoro che faccio dal punto di vista televisivo. Poi con il teatro invece tutto si ferma sullo stesso piano, dal punto di vista sia interpretativo sia professionale in senso stretto, quindi è un dovere responsabile che si coniuga con il piacere, ecco. Alessandro, quest'anno tanti attori popolari hanno riaffrontato i classici, ne abbiamo parlato anche noi al Sabato del Villaggio, Luigi Locascio ha portato sulla scena Otello, Michele Placido, Re Lear. Tu perché intanto hai scelto il Don Giovanni? Allora, il Don Giovanni fa parte di un progetto nato 5 anni fa, nel 2010, con l'Amleto, poi passato attraverso il Tiranno di Abrecerac e quindi Don Giovanni, cioè una trilogia sul 600, perché grazie anche alle grandi personalità di quel secolo che mi sono sempre affascinato ai tempi della scuola, è stato curioso il fatto che poi questi tre grandi personaggi vicini alla nostra società fossero tutti nati nello stesso secolo, a differenza appunto di Don Giovanni, che è il mito letterario per eccellenza. E quindi la scelta poi di concludere questa trilogia con Don Giovanni è perché negli anni ho avuto la possibilità e la fortuna di leggere di leggere alcuni libri che mi hanno riportato al senso della letteratura. E Don Giovanni, vi posso assicurare, è quanto di più denso, intenso si possa cogliere, non soltanto dal punto di vista teatrale, ma è proprio la sensazione di avere a che fare con un mito letterario immortale, eterno, e il riconoscimento del pubblico e soprattutto della critica, cosa molto rara, ne attesta proprio la verità di questa riflessione. Ma l'uomo di oggi cosa dice ancora questo Don Giovanni, secondo te? Gli dice che può scegliere tra passare la vita, diciamo, seducendo anche il proprio gatto, non credendo a nulla se non nella giustizia terrena e quindi destinato alla dannazione, oppure godere di tutto quello che la vita dà da sedotti e da seduttori, poi aggiustare un po' la rotta e quindi rendersi conto che superata una certa fase della propria vita bisogna così pensare che al di là, insomma, che dopo la vita ci sia qualcosa di altro. Perché credere che la vita sia soltanto quella che noi viviamo in maniera molto veloce e rapida è un po' riduttivo e soprattutto rischioso, considerando che Don Giovanni finisce tra le fiamme dell'inferno. Ah sì, non fa una bellissima fine. No. Alessandro, io ero venuta a vederti nel Cyrano a Milano, Cyrano peraltro col quale hai vinto la Maschera d'Oro del Teatro 2014, quindi è bello sottolinearlo. Io ero venuta e il pubblico era pieno di signore. Cioè, che aspettavano tutto Alessandro Preziosi, questo dobbiamo dire. Qual è per te il successo? Che poi escano dicendo ancora che bravo Alessandro Preziosi o che poi tornino a teatro? Guarda, la mia più grande, non sto dicendo consolazione, ma non è consolazione, ma la mia più grande soddisfazione è sapere che molti vengono a teatro per magari una foto, un autografo, o incuriositi dalla volta precedente o per la prima volta, che poi se ne vanno con un bagaglio di informazioni che condividono con me, perché il teatro rimane comunque, come in chiesa, l'unico luogo di condivisione a cielo aperto, cioè c'è un momento dove anche le resistenze o i pregiudizi o la superficialità dello spettatore cade rispetto alla forza delle parole e del contesto teatrale. Questa secondo me ma questo non è il mio merito, è forse anche abbastanza inconsapevole, perché non è che sto lì a pensare che cosa do o che cosa dicevo. Avere una sala piena è il massimo per un attore, e sono convinto che quella curiosità viene molto appagata. Del resto sono 10 anni che faccio teatro e in ogni città ci sono sempre gli stessi spettatori che magari tornano con i mariti, con i figli, e la cosa più divertente è vedere i mariti che ringraziano le mogli di averle portati a vedere i miei spettacoli. Allora Alessandro, adesso a Milano fino al 15 febbraio, ma la tournée è lunga, Imola, Bergamo, Gorizia, eccetera, eccetera, eccetera. Poi twitto il sito corateatro.it con KH, che così chi vuole sapere dove sarai nei prossimi giorni, così lo scoprirà. Grazie Alessandro, grazie ad Alessandro Preziosi per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi, ciao.